America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano, dove sono di passaggio di ritorno dal G20 di Antalya, Mario Platero. Beh, l'altro giorno vi ho dato questa canzone del giorno per dirvi, questa splendida canzone di Tupac, per dirvi che anche di fronte alla tragedia di Parigi, life goes on, la vita va avanti, appunto come ci ha detto Tupac in questa canzone. È vero che a un certo punto purtroppo per lui la vita si è fermata, ucciso negli slums a 24 anni, ma il messaggio resta, perché la vita in effetti va avanti nelle piccole cose, vi dicevo, va avanti nelle celebrazioni, va avanti nelle delusioni, insomma la vita continua e ce ne siamo accorti soprattutto in borsa. Il lunedì dopo l'attentato l'indice Dow Jones è aumentato anche di parecchio, le borse in generale sono aumentate. Ieri di nuovo l'indice Dow Jones ha chiuso al rialzo, non di molto, ma al rialzo. Perché dunque questa dicotomia, questa differenza fra i titoloni, fra le preoccupazioni che parlano di terza guerra mondiale e l'indifferenza della borsa a questa apparente minaccia catastrofica? Beh, in molti nel fine settimana si aspettavano cadute forti, corse all'oro, al dollaro, ai bond americani. Invece gli operatori, allibiti per i fatti di Parigi, devastati, preoccupati emotivamente, hanno partecipato al lutto, ma non hanno visto conseguenze economiche in questo attentato. Ieri invece sul piano politico una reazione forte, molto forte, anche preoccupante sotto un certo punto di vista, l'abbiamo avuta, una reazione cioè al terrorismo contro Parigi. Sentiamo. As well, and so until we can properly vet them through the right databases, it would be highly irresponsible to start bringing them in when they could be potential terrorists and provide a sort of jihadist pipeline into the United States. Mike McCall, repubblicano della Commissione per la Sicurezza Nazionale della Camera, ha chiesto una moratoria che blocchi l'arrivo dei rifugiati dalla Siria, ad esempio. Lo ha fatto scrivendo una lettera diretta al presidente Barack Obama. Due giorni fa, ve l'avevo già raccontato, la stessa cosa fece Ted Cruz, candidato repubblicano, sostenuto dalla destra cristiana. A lui, pensate, ieri si sono uniti una gran quantità di governatori, addirittura 30 stati ieri hanno annunciato di opporsi all'accoglienza di rifugiati siriani e chiedono anche loro un test religioso all'ingresso. Siamo in un anno elettorale, si cerca di giocare sull'emotività della gente, sulla paura, si cerca di attirare il voto promettendo la linea dura e a volte questo serve, ma Obama, che non ha elezioni davanti a sé, che è molto coerente con le sue idee di rispetto per la libertà, per i diritti, per ogni credo religioso, beh, ha dato una risposta molto dura. Sentiamo. Folks say that, well, maybe we should just admit the Christians but not the Muslims. That's shameful. That's not American. It's not who we are. We don't have religious tests to our compassion. Ecco, Obama ha detto in sostanza che i governatori non possono bloccare l'insediamento dei rifugiati nei loro stati. Direi una risposta molto chiara. E nello stesso comunicato ha spiegato che il piano di accoglienza della Casa Bianca, che prevede l'arrivo di 10.000 rifugiati, e ci sono 180 località dove questi rifugiati andranno, proseguirà come se nulla fosse. Gli Stati Uniti accoglieranno i profughi. Ma torniamo a quelle domande iniziali. Perché in parallelo all'emotività dei politici e dei media, la reazione dei mercati ci dà una spiegazione di quello che è successo, che un premio Nobel come Robert Lucas probabilmente amerebbe definirla come una reazione razionale. Ecco, questa reazione credo che ci interessi molto per capire quali saranno le conseguenze dell'attacco a Parigi, fino a che punto ci sono rischi per l'economia, ad esempio, ma rischi anche per noi a casa, sapendo che comunque dei problemi ci saranno, che comunque degli attentati continueranno ad esserci, molti di questi però potranno anche essere anticipati. E dunque arriviamo a quella che è stata l'analisi di quel che è successo. Dunque il mercato ha avuto tutto il weekend per riflettere, per capire che la strategia di attacco che ha seguito ISIS a Parigi è completamente diversa da quella di Al-Qaeda. Al-Qaeda non voleva creare uno Stato, Al-Qaeda voleva restare un gruppo terroristico pronto a colpire degli obiettivi spettacolari, per esempio le due torri. E l'attacco alle due torri è stato in effetti, un attacco incredibile dal punto di vista della pianificazione e della azione. Nulla a che fare con l'attacco di questi ragazzi che sono andati a sparare in ristoranti e in un teatro a Parigi. E c'è dunque una differenza profonda. Perché? Perché oggi ISIS, che invece si è staccata dal Qaeda e ha cercato di costituire il califfato e di creare uno Stato, criticata dal Qaeda tra l'altro, quindi i due gruppi sono così dal punto di vista ideologico su posizioni diverse, anche se al Qaeda, mi hanno detto fonti molto vicine alla Casa Bianca, è ormai in una fase di declino assoluto. Ecco, al Qaeda diceva no, guai, perché se tu fai uno Stato potrai essere attaccato, ed è esattamente quello che sta capitando adesso. ISIS è sotto attacco. Cosa succederà? Molto probabilmente, di questo devo dire ne sono certo, gli alleati finiranno per prevalere, finiranno per riconquistare i territori perduti, questo è l'obiettivo della Casa Bianca, e ISIS tornerà ad essere un gruppo terroristico, un gruppo terroristico che avrà obiettivi più facili, obiettivi drammatici per noi e ovviamente dolorosissimi e persino impensabili per quelli che li soffriranno, perché il messaggio di nuovo della Casa Bianca è chiaro, degli attentati ci saranno, un funzionario della Casa Bianca appunto mi ha detto, diceva, insomma noi non riusciamo a controllare coloro che arrivano e sparano dentro una scuola, non possiamo controllare un terrorista che arriva e spara dentro la folla della metropolitana, ma c'è una differenza. La differenza è tra il cane sciolto e invece un gruppetto organizzato. Ecco, su quello l'intelligence deve intervenire e di nuovo la Casa Bianca pensa che ci sia stato un failure dell'intelligence francese, che avrebbe dovuto identificare queste conversazioni, le avrebbe dovute identificare in anticipo e smascherare questo attacco. Il messaggio in qualche modo l'ha dato anche David Cameron, primo ministro britannico, che ha detto che negli ultimi mesi hanno smascherato ben 7 tentativi di attentati nel Regno Unito. Insomma, la vita andrà avanti, non saranno dei piccoli attentati isolati, per quanto drammatici, per quanto dolorosi, a cambiare l'economia di un paese, e potrebbero esserlo se questi attacchi fossero a delle centrali nucleari, a delle centrali elettriche che vanno a paralizzare la vita del paese. Ma l'ISIS questo non sembra in grado di farlo. Dovremmo rassegnarci al pericolo, al rischio, dovremmo essere vigili, ma come dire, la vita, come diceva Tupac, va avanti, andrà avanti sull'economia. Nei prossimi giorni voglio tornare su alcune delle tematiche economiche di cui si è parlato al G20, perché sono importanti, perché rappresentano il nostro futuro, rappresentano il futuro concreto della vita che va avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, potrete continuare a trovarle su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi la nostra reazione oggi nel dolore, nella preoccupazione, nell'ansia, dovrebbe anche essere una reazione di puntare a liberarci di questo, a convivere con il rischio e ad andare avanti. Dunque, di Bob Dylan, I Shall Be Free. I took me a woman late last night, I was 3/4 drunk, she looked half right. Tears started peeling off her onion gook and took off her wig, said, how do I look? I was high flying, out the window, bare naked. Whoa, sometimes my gets a drunk, I walk like a duck and I smell like a skunk, but it don't hurt me none, it don't hurt my pride. I got my little lady right by my side, pretending she don't know me. Out there painting on the old woodshed, can of black paint, it fell on my head. I went down to scrub and rub, but I had to sit in back of the tub. Cost a quarter. Well, my telephone rang, it would not stop. It was President Kennedy calling me up. He said, what do we need to make the country grow? I said, man, we need Bridget Bardot, Anita Ekberg, Sophia Loren, Country of Grow. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!